alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'edera di Grazia Deledda. 14ª puntata. Qualche vecchia parente propose di cantare una nenia funebre in onore del morto, ma Don Simone si oppose. Egli era un uomo all'antica e approvava anche gli antichi usi, ma capiva che certe barbare cerimonie hanno fatto il loro tempo. Quindi ordinò ad Annessa di preparare il pranzo, mentre di solito non si accende il fuoco nelle case ove c'è un morto. Ed ella si ritirò nel suo angolo sotto la tettoia, contenta di sfuggire all'attenzione delle persone curiose che andavano e venivano con la scusa di fare le condoglianze a Donna Rachele e ai vecchi nonni. Il cortile era deserto. La piccola Rosa era stata mandata in casa della zia Anna e non doveva ritornare che a sera inoltrata. L'ora passava. Annessa si sentiva sempre più tranquilla. Ancora un po' e la terra muta si sarebbe aperta per inghiottire il terribile segreto. Ma mentre attraversava la cucina per cercare qualche cosa nell'armadio, sentì un profondo sospiro. Si volse inquieta e nell'angolo dietro la porta vide Niculino il cieco, immobile, rigido. Egli fissava nel vuoto i suoi occhi biancastri dalle palpebre pesanti e pareva deciso a non muoversi presto. «Che fai lì?» ella domandò inquieta. «La gente è di là, nelle stanze di sopra, va di là». «E tu che fai?» «Preparo la colazione», ella rispose prendendo un piatto dall'armadio. «Ah, i morti non mangiano più, ma i vivi mangiano ancora». «Sicuro?» «Dal momento che essi hanno ancora la bocca, ma che ti importa?» E la disse seccata. «E tu, ieri, non hai mangiato qui e tuo padre non è morto?» «Sì, ho mangiato e bevuto», rispose l'altro con la sua voce fioca e dolce. «Perciò, basta. Dov'è Gantine? Non tornerà oggi? Né oggi né domani, è lontano, nella lavorazione del salto di San Matteo». «E Don Paolo dov'è?» «Ma che ti importa?» ripeté Annessa. «Non ho voglia di chiacchierare con te, Niculino. Fammi il piacere, vattene». «Annessa», egli ripeté senza badare alle aspre parole di lei, «dov'è Don Paolo? Se ritorna, digli che non tutti ieri hanno creduto, come ho creduto io, di far la comunione in questa casa. C'è della gente maligna nel mondo, molta gente maligna. E lascia che ci sia, lo so, i fratelli Pira hanno sparlato di noi dopo aver mangiato e bevuto qui, ma non abbiamo tempo per pensare a queste cose oggi». «Bisognerebbe avvertire Don Paolo», ripeté l'altro con insistenza. «Egli non ha bisogno di avvertenze, lasciami in pace, Niculino». Ella ritornò nel cortile, ma si sentì di nuovo inquieta. Avvertire Paolo? Di che? Delle maldicenze dei vecchi sfaccendati? Paolo avrebbe riso, egli non amava i pettegolezzi. Dopo un momento ella rientrò nella cucina per domandare al cieco che cosa i fratelli Pira avevano detto. Niculino non c'era più. Nella camera si udiva il falegname inchiodare i galloni d'argento sul drappo nero della cassa. E quel suono, lugubre, di martello, riuscì quasi piacevole all'orecchio di Annessa. Oramai nessuno più vedeva il morto. Ella solo lo vedeva, ancora, livido, macabro, con la bocca aperta e gli occhi di vetro. Ma oramai la cassa nera, coi suoi galloni e i suoi chiodi, custodiva il segreto, come lo custodiva lei. Poi il martello tacque. Una voce disse dietro l'uscio: «Ecco fatto, andiamo a mangiare». E a poco la gente se ne andò e i vecchi nonni e Donna Rachele mangiarono. Poco, sì, ma tranquillamente, come persone che hanno la coscienza quieta e la certezza d'aver compiuto il proprio dovere. Thank you. Alle 3 il morto fu portato via. Annessa rifece il lettuccio, rimise tutto in ordine. E i nonni e donna Rachele scesero e continuarono a ricevere la gente nella camera dove era morto il vecchio. Dopo i funerali, prete Virdis ritornò e sedette accanto a donna Rachele, domandando se Paolo era tornato. «Questa mattina l'hanno veduto uscire», continuò il grosso prete, che teneva sempre in mano il fazzoletto rosso e turchino. «Errore sopra errore, sì, cari miei, da ieri ad oggi avete fabbricato un edificio di errori. Speriamo non crolli». «Che vuol dire con queste parole?» domandò Don Simone. Ma prete Virdis agitò il fazzoletto e tacque. Annessa però notava con inquietudine che egli volgeva vivamente la testa ogni volta che la porta s'apriva. Pareva che egli aspettasse qualcuno, ma quando le persone entravano reclinava la testa e agitava il fazzoletto senza pronunciar parola. E solo verso il tramonto s'alzò e si congedò. «Devo andare per la benedizione», disse con voce grave. «Se avete bisogno di me, chiamatemi». Finalmente la casa restò tranquilla. I due vecchi uscirono nell'orto. Donna Rachele poté muoversi. Annessa sedette sullo scalino della porta che dava sull'orto e guardò verso la montagna. Cadeva una sera mite e luminosa. I boschi, immobili, taciti, dal confine dell'orto fino agli estremi vertici della montagna apparivano rosei, come illuminati da un incendio lontano. Tutto era pace e silenzio, ma Annessa si sentiva stanca e benché le sembrasse di sentire ancora nella camera vicina l'ansare del vecchio asmatico, provava l'impressione che anni e anni fossero trascorsi dopo il fragoroso temporale della notte avanti. Non poteva convincersi che in un giorno e una notte fossero accadute tante cose, e le pareva di essere invecchiata e che un peso invisibile le gravasse sulle spalle e la costringesse a curvarsi fino a terra. «Tutto è finito», pensava, «e ora bisogna andarsene. Se resterò qui, in questa casa, non sarò più capace di ridere, di parlare, di lavorare. Ho liberato gli altri dal tormento del vecchio, ma mi sembra d'avermi caricata un peso sulle spalle. Sì, eccolo qui, sulle mie spalle. È il vecchio e geme ancora». Trasalì e impallidì. Uno sbadiglio nervoso le contrasse il viso. «Ah, ecco la febbre che ricomincia. Già è calato il sole, ne avrò per tutta la notte». Per qualche tempo rimase immobile sullo scalino della porta, ma invece di riposarsi le pareva di sentirsi sempre più stanca e come il cielo si oscurava, anche i suoi pensieri si velavano. Guardava verso il punto della montagna dove credeva ci fosse l'ovile di zio Castigo e pensava: «Paolo sarà già in cammino. Scenderà forse a piedi per lasciare il cavallo al pascolo e arriverà stanco e vorrà cenare. Bisogna muoversi. Devo anche andare alla fontana». Ma una grave stanchezza le impediva di muoversi. Di nuovo sbadigliò e rabbrividì dai piedi alla testa. «Ah», disse a voce alta, «ci manca solo questo, che mi ammali». E un pensiero molesto la turbò. «Se mi assale il delirio e parlo, no, labbra mie, tacete. Ora che la terra ha ingoiato il segreto, dovrei svelarlo io». Sbadigliò ancora e si portò ambo le mani alla bocca, poi si alzò smaniosa di muoversi, di vincere il maligno sopore che la invadeva. Accese il fuoco, preparò la cena, pensò di andare alla fontana e cercò l'anfora, ma mentre attorcigliava un panno per farne un cercine, provò un capogiro e dovette appoggiarsi al muro per non cadere. Con l'ombra della sera tornava la nebbia perfida della febbre. Donna Rachele si accorse che Annessa stava male e le tolse l'anfora di mano. Figlia mia, dammi ascolto, va piuttosto a coricarti. Bisogna andare, ella disse con voce velata. Bisogna andare a letto, figlia, non ti accorgi che hai la febbre? Ebbene, vado a prendere Rosa e mi faccio dare un po' di acqua da zia Anna, mi lasci andare. Prese una piccola brocca e uscì. La sera cadeva limpida e dolce. Sul cielo, ancora d'un color rosa azzurrognolo, di là delle casupole nere del villaggio, scintillavano le stelle dell'Orsa. I contadini tornavano sui loro piccoli cavalli stanchi e attraverso le porticine spalancate si vedevano le donne intente ad accendere il fuoco e a preparare il pasto per i loro uomini. Arrivata presso la casetta della cugina di donna Rachele, Annessa, che cominciava ad inquietarsi per la prolungata assenza di Paolo, si fermò e stette un momento a guardare se qualche pastore scendeva dal sentiero della montagna. Ma non vide nessuno ed entrò nel cortiletto aperto, poi nella casetta della zia Anna. Era una casetta di gente povera. Nella cucina di sopra della porta si stendeva una specie di soppalco sul quale stavano le provviste della legna, della paglia, dell'orzo. Annessa, sei tu? Rosa è andata alla fontana assieme con Ballora e con le bambine, disse la zia Anna sporgendosi appunto dal soppalco, dove era salita per prendere un po' di legna. Aspetta un momento. Scese lentamente per una scaletta a piuoli, mentre Annessa versava dalla brocca deposta su una pietra un po' di acqua nella sua anforetta. Prendo un po' d'acqua, domani ve la riporterò, zia Anna. Anima mia, con gli interessi la voglio, disse l'altra scherzando. Ballora riporterà Rosa a casa vostra nel ritornare dalla fonte. Hanno aperto il testamento? Domandò poi. È vero che lo aveva in consegna Prete Virdis, quel vecchio istrice. Non gli pesino neppure come una foglia di rosa le mie parole, ma egli era ben gretto e diffidente. Oggi si è sparsa la voce che Paolo l'ha fatto morire a furia di bastonate. Ah! Gridò Annessa ricordando le parole del cieco. Si dice questo? Chiacchiere, anima mia, ma che hai? Annessa tremava di febbre e di paura. Pensava però che non doveva tradirsi e rispose con calma. Tutte le sere, da qualche tempo in qua, ho la febbre. Ora vado e mi corico. Sono stanca morta, zia Anna. Ho la schiena rotta. Addio, parleremo un'altra volta. Lasciatemi andare. Verrò da voi più tardi, anima mia, disse la zia accompagnandola fino al sentiero che attraversava la china rocciosa. Se incontri Ballora, dille che s'affretti, è già tardi. Annessa affrettò il passo con la speranza di trovar Paolo già rientrato, ma a metà strada, in una viuzza solitaria, le parve di sentire la voce di Ballora e il pianto di Rosa. Si mise a correre e in fondo alla viuzza incontrò infatti la nipote della zia Anna che a sua volta correva con Rosa tra le braccia e seguita da altre due bambine spaurite. «Rosa, Rosa!» gridò Annessa deponendo per terra l'anforetta e slanciandosi incontro a Ballora. «Che c'è? Che c'è?» Rosa le si aggrappò al collo, le abbandonò la grave testa sulle spalle, tutto il suo corpicino tremava convulso. «Torna indietro!» disse la fanciulla con voce ansante. «I carabinieri ti cercano, sono lì in casa vostra e arrestano tutti, tutti, tutti, anche zia Rachele!» «Anche zia Rachele?» balbettò Annessa senza sapere quello che diceva. Mentre Ballora e le bimbe correvano, colte da timor panico, quasi fuggendo da un luogo pericoloso. Ella le seguiva e domandava con voce ansante. «Come? Come?» «Non so, noi siamo arrivati davanti alla vostra porta, volevamo riportare Rosa, ma davanti alla vostra casa c'era gente, molta gente, e una donna mi disse, ci sono i carabinieri, arrestano tutti, tutti, e cercano Annessa. Allora io deposi la brocca per terra, presi Rosa e scappai. Bisogna avvertire zia Anna, e tu nasconditi, Annessa, nasconditi, nasconditi!» Ella non pensava ad altro. Nel suo terrore, vinta dal solo istinto della conservazione, pensava che ella sola, colpevole, era in pericolo. Gli altri erano innocenti, non avevano nulla da temere, Non pronunziò più una parola, non le venne in mente di tornare indietro e di accertarsi se Ballora se era o no ingannato o se non avesse esagerato il pericolo. L'istinto la spingeva, la costringeva a correre, a salvarsi. Anche Ballora e le bimbe proseguivano la loro corsa, sfrenata. Pareva fossero inseguite tutte dai carabinieri. Alcune donne s'affacciarono alle porticine delle casupole e una disse: «Sono ragazze che si divertono a rincorrersi». E le fuggitive poterono arrivare indisturbate davanti alla casetta di zia Anna. La cucina, ove entrarono una dopo l'altra, era deserta. Annessa pensava di nascondersi nel soppalco, ma Ballora le disse: «Non restare qui, Annessa, non restare. Prima ad ogni altro posto verranno a cercarti qui. Nasconditi altrove». «Ma dove? Dove?» la domandò guardandosi attorno disperata. «Vattene, Annessa», incalzò l'altra. «Vattene, mi pare che vengano». Allora Annessa, cieca di paura e di egoismo, non cercò di sapere altri particolari, non vide più nulla. Si liberò violentemente di Rosa, se la strappò dal collo, dalle braccia, come una fronda di rovo che non volesse staccarsi, e si slanciò fuori e riprese la sua corsa. Fortunatamente il luogo era deserto. Nessuno la vide, o meglio, ella non vide nessuno, e poté rifugiarsi nel cortile della chiesa e di là, su per la scaletta di pietra, salì al primitivo belvedere dove nei giorni della festa i priori si riunivano per prendere il fresco e giocare alle carte. Era una specie di loggia a tre arcate, coperta di un tetto di canne e circondata di un parapetto di pietra. Ella si inginocchiò davanti al parapetto e sporse appena il viso fra due pietre. Sul suo capo, nello sfondo della rozza arcata, brillavano le stelle. Tutto era silenzio, pace, ombra. Il cuore le batteva convulso, la febbre aumentava il suo terrore. Le pareva che fantasmi mostruosi li inseguissero per afferrarla e gettarla in un luogo più misterioso e spaventoso di quell'inferno al quale non credeva. Il caos era intorno a lei, un'ombra, una nebbia, una notte tormentosa, senza fine. Fu davvero una notte tormentosa, più terribile ancora della notte scorsa. Dal suo nascondiglio, ella poteva vedere la spianata, la china rocciosa e la casa della zia Anna. A lungo un lumicino brillò nella casetta. Ella vedeva delle ombre muoversi e le pareva di sentire il pianto di Rosa e rumori vaghi, indistinti, ma poi tutto fu silenzio. Un uomo a cavallo attraversò la spianata. Il cielo ad oriente si imbiancò. Alquanto rassicurata, ella si alzò, si scosse, ragionò. Dov'era Paolo? Era tornato? Era stato anche lui arrestato? E gli altri? Se Ballora si fosse ingannata? È tutto un sogno, pensò. Ballora deve essersi ingannata, no? Non si arresta così la gente all'improvviso in un momento. Io deliro, è la febbre che mi tormenta. Ma poi ricordò che anche la notte prima aveva creduto di sognare, mentre tutto era stata una tragica realtà. Io sono la causa di tutto, io maledetta. Che cosa devo fare adesso? Perché sono fuggita? Di che cosa ho paura? La reclusione mi aspetta. Lo sapevo, anche prima di fare quello che ho fatto. Perché fuggo ora? Dio mio, tutto è perduto. Sedette sul primo gradino della scaletta e cercò di esaminare meglio la situazione. A poco il suo terrore e il suo dolore diminuirono e un barlume di luce brillò nella sua anima tenebrosa. Ella tornò ad essere ciò che era stata sempre. L'edera, che non poteva vivere senza il tronco. Bisogna salvarli, decise, alzandosi e ridiscendendo nel cortile. Andrò a costituirmi e se occorre dirò tutto. Ritornò verso la casetta di zia Anna. Non aveva più paura. Potevano ben prenderla, legarla, gettarla pure in un luogo di dolore eterno. Ella non avrebbe detto parola se non in favore dei suoi benefattori. Picchiò. Zia Anna aprì subito. «Sei tu?» disse sollevando le mani spaventata. «Che vieni a fare? Ti cercano, sai. Hanno guardato in tutte le case del vostro vicinato e aspetto che da un momento all'altro vengano qui. Non sono andata a letto perché sono certa che verranno». «Ma è vero, dunque?» domandò Annessa con voce sorda. «E Paolo?» «Paolo non è tornato, almeno non era tornato poco fa. Gli altri sono tutti arrestati, tutti, anche Rachele». «Anche lei», disse Annessa. E si gettò per terra come fulminata. Credendola svenuta, la donna si chinò per sollevarla, ma ella la respinse, s'alzò, si batté un pugno sulla bocca quasi per impedirsi di parlare e volse le spalle per andarsene. «Senti, figlia mia, dove andrai?» gridò la donna. «E dove volete che vada? Torno a casa. Chi c'è là?» «C'è un carabiniere che aspetta il ritorno di Paolo». «Ma Paolo certo non tornerà. Certo ci sarà stata qualche anima buona che sarà corsa ad avvertirlo. Ascoltami, Annessa, vedo la tua intenzione. Tu vuoi farti arrestare. Guardatene bene se sai qualcosa. Sei una donna, sei fragile. Finiranno col farti parlare. Ma voi, anche voi, credete, io non so niente. Tutto il paese dice che Paolo ha bastonato il vecchio sino a farlo morire e che tu e tutti voi siete complici. Se questo non è vero, perché vuoi farti arrestare? Nasconditi. Se sai qualche posto sicuro, vedrai. È cosa da niente. Domani forse tutto si accomoderà». «Appunto. Voglio costituirmi per questo. Dove volete che vada, zia Anna? Non sono un uomo per correre tra i boschi. Anzi, già che devono venire, lasciate che li aspetti qui. No, non verrò dentro. Non voglio che le bambine si spaventino. Li aspetterò qui». Sedette sul muricciolo del cortile. Intorno regnava sempre il profondo silenzio della notte pura. La luna, grande, gialla, spuntava sopra la montagna. Il suo albore melanconico illuminava la spianata e le casette addossate alla chiesa. Zia Anna le si avvicinò e le mise una mano sul capo. «Sentimi», le disse sottovoce. «Io conosco Paolo più di quanto tu possa conoscerlo, Annessa, e so quanto egli vale. Egli è stato la rovina della sua famiglia. Ascoltami, anima mia. Se la giustizia si è mossa, qualche cosa deve essere accaduto». Annessa cominciò con impeto: «State zitta!» Ma poi scosse la testa e non proseguì. A che serviva? No, ella non voleva pronunziare parole inutili. Voleva solo operare, salvare i suoi benefattori. Zia Anna le premé la mano sul capo e continuò grave e misteriosa. «Sentimi, tu devi sapere quello che è accaduto e la giustizia ti cerca appunto perché spera che tu parli. Guardati bene da lasciarti prendere. Ti ripeto, se tu vuoi bene a Paolo, tu lo sai. Egli è per te un fratello, non perderlo, non parlare. Forse tutto si accomoderà. Ma bisogna che tutti stiate zitti e silenziosi come le pietre. Se occorrerà, dirò che la colpevole sono io sola», disse Annessa con voce timida. Ma zia Anna le mise la mano sulla bocca. Vedi, tu chiacchieri già, zitta figlia, zitta come la chiocciola. Tu non devi parlare, non devi accusare nessuno, non devi accusarti. Non ti crederebbero, anche se tu ti accusassi, e ti costringerebbero a dire ciò che davvero hai veduto. E li perderai, figlia, li perderai. No, non ditelo neppure», ella supplicò giungendo le mani. «Non fatemi impazzire». «Silenzio», disse la donna sollevando la testa. Annessa tacque, ascoltando. sentì passi gravi e rumorosi nella viuzza, di là della spianata, e benché pronta a tutto vibrò di nuovo di spavento e balzò in piedi. Ma i passi cessarono. Di nuovo tutto fu silenzio sotto il grande occhio giallo della luna. Fin da stamattina si vociferava che il vecchio fosse morto in seguito a maltrattamenti di Paolo e che questi verrebbe arrestato prima di sera. Qualche amico, qualche anima buona, avrà cercato di informare Paolo e in seguito a questa avvertenza egli non si sarà mosso dall'ovile di zio Castigo, non ti pare? Lo credo, esclamò Annissa con fervore. E se egli è libero, tutto si accomoderà. Se io potessi vederlo, pensò, se io potessi parlare con lui, che cosa gli avrebbe detto? Non la verità, certo, ma il desiderio, il bisogno di vederlo, di raccontargli ciò che era successo, di combinare con lui il miglior modo di difendersi per salvarsi. La spinsero verso il sentiero della montagna. S'avviò come una sonnambula, senza dire a zia Anna dove andava. Dove vai? Dove vai, Annessa? Ella non rispose. Ricordava le parole del cieco, il contegno di prete Virtis, lo sguardo beffardo dei fratelli Pira. Sì, certo. Fin dalla mattina la gente sapeva che una calunnia infame correva sul conto di Paolo. E qualche anima buona, come diceva zia Anna. Forse lo stesso Niculino aveva mandato ad avvertire il vedovo. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.